Bene, siamo rientrati noi di 451 frammenti sonori, una buona serata dalle frequenze di Radio Città del Capo e stasera siamo ritornati clamorosamente in duo. E dunque un saluto e una buona serata da Max Macchia. E chiaramente da Eliseo Scarpa, dal buon Eliseo Scarpa. Dal buon, questa volta mi hai fregato tu, bravo, bravo, bravo. Abbiamo finito la nostra altalena di conduzione, dunque siamo rientrati in coppia per la presentazione della puntata di stasera di 451. Ricordiamo prima di tutto, come sempre, poi il nostro indirizzo del No Blog, del blog No Blog che abbiamo costruito da un annetto e mezzo a questa parte insieme al buon Lorenzo Albano che cura tutta la parte tecnica, e ricordiamo dunque www.451frammentisonori.noblogs.org e lì troverete tutte le informazioni relative alle puntate precedenti e anche quelle relative alla puntata di stasera tra un 4-5 giorni successivi alla puntata. Sì, non dirlo troppo, se no poi magari un mese dopo la un mese, no, vabbè. Un po' prima, 15 giorni. Sì, entriamo subito a bomba, dato che poi questo è un periodo di molte bombe che arrivano dal cielo e anche dal buon dall'alto, dal buon nuovo Super Monti. Fagli sganciare. Sta incominciando a sganciare un po' di bombe. Tra poco, tra qualche giorno vedrai. Insomma. Gente che insomma sanguinerà lungo le strade per le bombe di Monti. Al di là di questo, andiamo appunto a discutere e affrontare il tema di stasera, che è un giochino che abbiamo pensato, ragionato, cioè ET00. ET ve lo ricorderete sicuramente. Ma no, come fanno a ricordarsi ET? È una roba che non si ricorda nessuno. Ma è una roba anni 80, vabbè, qualcuno molto molto giovane però. Ma secondo te non si ricorda ET? ET, insomma, l'omino un po' malato, molto buono, telefono di Spielberg. Casa, scusa, telefono Come fai a scordarlo? Bravo, hai ragione. ET00, come dici tu, diciamo tra parentesi, in realtà è un extra techno 00, dunque abbiamo giocato un po' su questo elemento e ovviamente se riusciamo adesso velocemente a declinare questo concetto. Sì, ci siamo messi in un ginepraio questa sera, volutamente, sperimentiamo anche con le spine, ma ci saranno anche decisamente le rose. E cosa succede? Succede che intorno alla fine degli anni 90, probabilmente, o forse anche un po' prima, finisce quel fenomeno che è stato la techno sia quella americana, soprattutto con Detroit, ma anche quella europea, buona parte, diventa glitch, diventa minimal techno, si passa a una sorta insomma di post techno, dove insomma si smarrisce anche la strada maestra. Questa sera tentiamo di così rintracciare delle strade, soprattutto degli ultimissimi periodi, ma avremo anche qualche chicchetta dei primi anni zero, che appunto, muovendosi da quello che è la memoria della techno e da quelle che sono appunto le movenze di questa musica, dell'attitudine, riesce a estrapolare delle cose, però appunto spostandola da un'altra parte. Si potrebbe chiamare anche una post-tecno, una sorta di post-tecnico, tecnico anche nel senso... Anche tecnico, ma sì. Abbiamo il tecnico adesso, il governo, no? Il super tecnico, stato un lapsus. Caro mio, Radio Monti. Anche qua, Partiamo subito, poi rientriamo presentando velocemente soltanto la prima formazione di questo discorso, è Team Doyobi, l'album è Choose Your Own Adventure 2004. Beh, notevole team Doyobi che insomma altro non fa, però lo fa con una certa maestria, essendo una seconda generazione la sua sicuramente rispetto alla SCAM, storica etichetta della techno, dell'IDM, della techno intelligente come veniva chiamata negli anni 90, appunto il suono che creavano Warp, creava SCAM, creavano etichette insomma che la Force Inc. Lavoravano appunto sulla techno, non tanto spostandosi sul club, quando lo facevano comunque sempre in maniera tra virgolette sperimentale, virgolettiamo perché comunque non che altra techno più da club non fosse sperimentale, anche appunto nel ricercare ritmicità particolari, e infatti in questo senso Detroit insegna, Detroit Docet, ma anche certa techno più stradaiola, più vicina all'hip hop, potremmo considerare, non so, certe forme alla DJ Assault o forme più hardcore, insomma, non per questo insomma la techno sia da una parte come IDM sia dalla parte clubistica perde insomma di carattere sperimentale. Di certo appunto con la SCAM che produce cose insomma piuttosto ricercate come Jazzcom o Boards of Canada, va a cercare una techno spaziale fuori anche dalla battuta, e quindi si cerca anche di andare oltre quell'aspetto metronominico che comunque dominava molta dance music, se non proprio techno, insomma sicuramente dentro quei circuiti tra techno e house, quello che si chiamava tech house appunto all'epoca, ma senza starci a perdere in tecnicismi che riguardavano soltanto DJ in voga in quel periodo, cose che insomma sono state anche smarrite nel corso degli anni, forse anche giustamente, insomma si ricordano appunto i due grossi filoni techno e house. Sicuramente in quella seconda generazione di Team Doyobi, anzi ancora, visto che la SCAM dopo 20 anni ancora stampa, e lo stesso Team Doyobi qualche mese fa, nel 2010, quindi un annetto fa, ha fatto uscire un altro lavoro, lavorano proprio su quel suono post Jazzcom, post Autechre, post appunto Boards of Canada, ritrovando sicuramente una serenità giocosa rispetto a quello che sarà invece un suono, anzi che sarà, che è stato, che fu per tanti aspetti appunto al passato remoto, il suono scuro, il tunnel anche paranoide di certe visioni autecriane, oppure di certe divagazioni cosmicheggianti di Boards of Canada, così a cercare un nulla immaginifico, non soltanto sonoro ma anche così appunto ideativo in termini generali. E appunto seconda generazione sicuramente anche Lextown Culp, dico bene? Sì, è un nome un po' particolare, infatti ci rischiamo di perderci. Lextown Culp, sì, sei stato bravo, devo dire, sì, che anche a distanza non era facile, che è un nome è un nome un po' complesso. In realtà questa formazione è un one man self, Alex Brandon Graham, che è stato considerato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 0 una delle realtà musicali più interessanti dentro l'IDM, questa categoria piuttosto importante di una certa techno. Poi noi siamo anche molto critici rispetto alle differenziazioni tecno intelligente, tecno non intelligente, insomma tecno intelligente è quella scema, no? Ecco, infatti non è così, perché insomma quella cosiddetta non intelligente in realtà ha fatto spesso delle cose magnifiche, molto più intelligenti di certa IDM, dunque da lì insomma non vogliamo entrare in questo ginepraio ulteriore. È comunque uno dei personaggi più interessanti appunto della nuova era di una certa techno. Non ha fatto molto in realtà, perché i dischi sono stati ben pochi, sono usciti fondamentalmente 2 album e 2 12 pollici, però il personaggio ha fatto un buon lavoro, almeno tra la fine dei 90 e inizio anni 0, rimanendo sempre dentro atmosfere di riferimento, in particolare Otecre, Jescon, che poi è un progetto parallelo, un certo richiamo a certe dimensioni Boards of Canada, comunque sempre dentro un percorso post Otecre o comunque connesso a quel linguaggio musicale degli anni 90. L'album in questione che abbiamo inserito nella nostra scaletta è Blurring of Trees, uscito per la Planet Mu nel 2003, e ci andiamo ad ascoltare un brano ricordando però che il personaggio ha collaborato con un progetto che andremo a ascoltare più avanti, proprio Fonesia, ma anche il grande Richard Devine e Kid 606. Sì, grande su Devine, vabbè. Vabbè, insomma, un nome, ma, dai. Sì, soprattutto stampa per la Planet Mu che è di Uzik. Ah, è giusto, hai ragione. Questa era la cosa più importante. Vabbè, Richard Devine, non so che non è, cioè, però è sempre un nome, dai. Sì. Anche però Mario, non serve, anche hai ragione, anche... hai ragione, ok. Tutto fatto. Thank you. Lexon Cops, l'abbiamo ascoltato in queste due, diciamo, facce dell'album The Blurring of Trees, uscito per la Planet Moon nel 2003. Una doppia faccia particolare, il primo brano molto molto riferito, ha tributato quasi a Otecra, a Aphex Twin e anche un po' a Kid 606, con cui il personaggio, cioè Brandon Graham, ha anche collaborato. E la seconda parte invece è molto più ambientale, rumorista, che ricorda certe dimensioni droniche anche, che troveremo per certi versi anche nella seconda parte della puntata di stasera, e che spesso abbiamo affrontato con passione, perché ci ha sicuramente coinvolto il tema dronico e rumorista, per cui, tenendo conto che questo era il 2003, si sente comunque qualche accenno forse a qualcosa che stava per nascere, che si svilupperà soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo trattato diverse trasmissioni, ma sicuramente ne tratteremo ancora in futuro sul tema rumorista, perché ha avuto soprattutto negli Stati Uniti, e questo non a caso è americano, un grosso sviluppo, e credo non a caso, anche perché i progetti successivi anche ha portato avanti Brandon Graham, in particolare Electric Company, ma anche altri, sono andati anche verso quella direzione. Sì, infatti prima che si sviluppasse tutto il noise americano c'era proprio questa generazione di passaggio post-techno, appunto, con riferimento chiaramente molto presente alla Warp di Aphex, di Autechre, come diceva Eliseo, appunto, e poi si svilupperà il noise. Qualcuno di loro, tra l'altro, riuscirà anche a entrare, infatti, nel tutto un circuito noise, oppure insomma si darà nuova pill con opere più d'avanguardia, tipo Svasky, che diventerà Whiteman, Whiteman, un grande personaggio. E, quindi l'America post-techno si trasforma insomma in drone rumorista, a quello che è un globetrotter di questi ultimi anni, pochissimi lavori, ma è molto giovane, tra praticamente Tokyo, anzi Parigi, Tokyo, Bangkok e New York, e stampa per un'etichetta berlinese. Tokyo Black Star, e qua, se da una parte con Team Doyobi e Lex on Culp abbiamo quasi trattato il suono post jazz come post Autechre, sicuramente con i due che tratteremo invece ora, i due progetti, Tokyo Black Star e poi dopo Zyklus, si va invece su quel territorio che è dexiciano. Eh sì. I due poli, insomma, che fanno svoltare le musiche techno, o fanno insomma arrivare a una sorta di sperimentazione non più ripetibile, quindi una sorta anche di estrema razio legata al genere, che poi insomma è difficile sempre definire come tale, però insomma, se vogliamo andare in linea di massima, questi due poli sicuramente rappresentano, tra l'altro, uno gli Stati Uniti e l'altro appunto l'Inghilterra, Autechre e Drexia. E Tokyo Black Star ha ben presente quello che è il suono di Drexia, e tra le corde di Drexia sicuramente c'era anche quel riferimento fine anni 70, primi anni 80, tanto John Carpenter, tanto Blade Runner, tanti telefilm di fantascienza legati appunto a musicalità che ci rimandano immediatamente a quegli anni. E quindi dal post che abbiamo creato questa sera, torniamo indietro. Dentro il post c'è anche questo appunto tentativo, e anche riuscita per tanti aspetti, di giocare col tempo, e quindi anche il pre, non soltanto nel post c'è il futuro, anzi il presente, ma soprattutto c'è un deciso pre. Eh sì, e dobbiamo ricordare anche l'album Black Ships, uscito 2009, di questo grande globetrotter. Mi ricordavo, Max, di fantascienza, c'era anche un film che aveva delle colonne sonore simili, no? Si chiamava quel fumetto, Super Monty. Super Monty. Da 3 a 1 adesso. Eh sì, infatti qualcuno ce l'ha detto. Da Monty, Tremonti, bella questa qua. Quasi da Lille Greg. Thank you. Beh, se con Tokyo Black Star abbiamo ritrovato, o forse ci siamo smarriti, ne parlavamo prima appunto a microfoni spenti con Eliseo, abbiamo smarrito l'asse temporale, perché insomma si richiamava un passato, ma si spingeva anche verso un futuro. Alla fine si perdevano i connotati temporali, quella particolarità. Invece con Ziklus, che non è il nome di una medicina degli anni 70, di uno psicofarmaco magari, no? Andiamo a ritrovare forse direttamente un impatto anche piuttosto insomma frontale rispetto alla fine degli anni 70. Qua si sente veramente tanto Giorgio Moroder, tanta disco sparata nello spazio, e quel tentativo appunto di ritorno al futuro. Se molti di artisti che questa sera stiamo mettendo cercano di spingere un suono oltre insomma i loro riferimenti, e prima ad esempio quando abbiamo trattato Autechre con Tim Doyobi e Lexon Culp, con Tokyo Black Star e Ziklus c'è una sorta proprio di tentativo di andare avanti ma guardando appunto all'indietro, ritorno appunto al futuro, quando a un certo punto le strade si sono biforcate, poi è diventata maniera anche la techno e la tecnologia, e invece all'epoca si immaginava e si studiava anche per certi versi un nuovo futuro. Da Ziklus, per chiudere la prima parte, velocissimi perché il tempo è tiranno, Queen Online Yellow, si può dire veramente un figlioccio chiaro e netto di Aphex Twin. L'album in questione è Cyriac Parasol della Scam, uscito per la Scam nel 2003. Poi rientreremo dopo il GR di Popolare Network o GR Radio Monti, non lo so se succederà anche qua, perché ormai sta diventando tutto Monti, per cui vediamo cosa succede. No, non è solo tiranno il tempo. No. Thank you.